viveva sulle coste messicane, la figlia di un famoso piantatore. Invece di piantare le banane, cantava caro nome del mio cuore. Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Juanita diventò un gran soprano, suo padre allora bruciò la piantagione, e con la figlia e la chitarra in mano, del Rigoletto fece una canzone. Juanita Banana, Juanita Banana.